alle palle di ferro, al bocciodromo. C'è mai un difetto, citare Blanche Morrison e François Truffaut. Gli occhi luminosi da accostare alle stelle, una sceneggiatura in stile Shakespeare. Sono venuta qui per dirti che non devono mancare fata, alba e tramonto. Non è come pensi e sei tutto l'immenso. Sono rilassato che non sia mai distorto, salire sul viadotto e poi finire di sotto. Sono venuta qui per dirti che scomodare il cielo, ma 3 metri e un gradino, andare dal ferramenta a San Valentino. We'll be right back.